La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e bentrovati a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Nella prima parte di questa puntata, Dino Pesole si chiede quale sia stato il contributo dei giovani nella storia del Novecento. L'interrogativo ha costituito anche il tema di fondo dell'appuntamento annuale Settimana della Storia, svoltasi a Roma. Ospite ai nostri microfoni, Emilio Gentile, docente di storia contemporanea presso l'Università La Sapienza. Nella seconda parte vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sul conflitto scoppiato lungo la linea gotica che, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha messo fine all'occupazione tedesca in Italia. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. In che modo i giovani, le nuove generazioni, hanno contribuito a fare la storia del Novecento? L'interrogativo ha costituito il tema di fondo della settimana di incontri e di dibattiti svoltisi in settimana a Roma, all'auditorium della Rapacis, nel corso dell'appuntamento annuale Settimana della Storia. Dalla trincea alla piazza, questo è il titolo dell'iniziativa. La trincea è quella in cui centinaia di migliaia di giovani militari ventenni combatterono e morirono nel corso della Prima Guerra Mondiale. La piazza è il luogo della protesta, il 68, di cui i giovani furono assoluti protagonisti. È un tema stimolante questo del rapporto tra i giovani e la storia. All'argomento è dedicato un libro, Il secolo dei giovani, scritto da Paolo Sorcinelli e Angelo Varni, pubblicato da Donzelli. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. Il secolo scorso ha introdotto stabilmente nella storia la gioventù, sia sul piano grezzo della maggiore speranza di vita, che producendo un giovanilismo politico attivo nella propaganda ed emergente nel lessico. Il titolo dell'inno fascista, Giovinezza, composto nel 1920, o la denominazione del partito dei giovani turchi, fondato nel 1905, rinviano a movimenti che proclamavano di voler modernizzare le società di riferimento. Mobilitazione, reclutamento, fronte, milizia, leva. Parole che attraversano il Novecento e lo connotano complessivamente nel senso di un attivismo militante e vitalistico. Ma l'attenzione politica nei confronti delle masse giovanili, riassunta nello slogan «Largo ai giovani», si è ritorta, a intervalli progressivamente ristretti, contro la loro speranza di vita, avviandoli a guerre sempre meno convenzionali e più distruttive. Ecco dunque la grande contraddizione del secolo scorso. Da un lato un attivismo, una speranza di cambiamento, impersonata naturalmente dalle giovani generazioni, dall'altro l'uso distorto che ne è stato fatto dall'incalzare drammatico degli eventi. Nascono le generazioni perdute, con il pesante tributo di sacrifici umani che le due guerre mondiali e la Shoah imposero ai giovani. Nella Germania nazista, a partire dal 1944, furono arruolati direttamente dai ranghi della gioventù hitleriana ragazzi di 17 anni, ma si conoscono anche casi di dodicenni. Circa 5.000 ragazzi tra i 14 e i 16 anni furono impiegati nella disperata difesa di Berlino e di essi sopravvisse solo il 10%. L'esercito della Repubblica Sociale Italiana, costituitosi alla fine del 1943, cominciò a chiamare alle armi la classe del 1925. Anche la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, negli ultimi anni di guerra, finirono per arruolare i diciottenni. Ne deriva una specie di infantilizzazione della guerra, non più agita da una gioventù consapevole e magari trasformata dall'esperienza, ma vissuta senza soluzione di continuità rispetto alla frequenza della scuola superiore e al conforto della protezione familiare. Poi, dalla guerra nel Vietnam al 68, gli anni della rivolta e della critica alla società dei costumi. Anni in cui i giovani furono protagonisti assoluti tra mille contraddizioni, spinte al cambiamento e miti che si riversarono con forza negli inquieti anni 60. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. Abbiamo in linea lo storico Emilio Gentile, che ha svolto la lectio magistralis sulle nuove generazioni nella storia dell'Europa del Novecento nel corso della settimana di incontri e di dibattiti che si è svolta all'auditorium Ara della Pacis nel corso della settimana della storia. Grazie professore per aver accettato il nostro invito prima di tutto. È un piacere. Professore, ci racconti un po' quello che ha detto nella sua Lectio Magistralis sulle nuove generazioni nella storia dell'Europa del Novecento? Che avevo a disposizione, che è stato poi in realtà più di un'ora, ho cercato di concentrare l'attenzione su due generazioni che hanno fatto irruzione nella storia dell'Europa del Novecento, come era il titolo stesso di questa settimana della storia, cioè la generazione del 1918, la generazione che si forma nei primi anni del Novecento e che poi partecipa alla Grande Guerra, e poi la generazione del 68, cioè la generazione che si forma nei primi anni del dopoguerra e partecipa alla grande contestazione degli anni del 67-68, che fu fenomeno internazionale ma che ebbe una particolare virulenza in Italia, dove poi si installò e rimase per quasi un decennio, sfociando nel terrorismo delle Brigate Rosse. Quindi il tema era quello di fare un tentativo di confronto fra ciò che poteva accomunare queste due generazioni e ciò che invece le differenziava. Ciò che le accomunava era che entrambe erano figlie di una epoca di progresso e di benessere. Entrambe erano accomunate dal desiderio però di rivoltarsi contro la concezione della vita solo come progresso e benessere, rappresentato da una sorta di trasformazione dell'uomo in consumatore di beni, e cercavano qualcosa di più eroico, più morale, più intransigente, e per questo si rivoltano contro i loro padri. L'altro elemento comune è che entrambe hanno alle spalle il mito di una rivoluzione tradita: i giovani del 18 il risorgimento, il giovane del 68 la resistenza. E infine un terzo elemento era questa disponibilità a fare uso di qualsiasi mezzo e persino della violenza, che in un primo momento viene teorizzata e poi viene praticata, per realizzare con una sorta di intransigenza morale quel mondo migliore a cui loro aspiravano. È possibile dire che a fronte, diciamo, delle istanze ovviamente di rinnovamento che per definizione i giovani e le nuove generazioni portano avanti, ci sia stato nel Novecento, come dire, una sorta poi di strada che ha preso altre vie? Ad esempio, appunto, lei citava il sacrificio che, diciamo, la storia, l'incalzare degli eventi ha imposto alle nuove generazioni, quelle nate alla fine dell'Ottocento. Ecco, è possibile interpretarlo anche in questo modo? Certamente, perché diciamo che il problema stesso della giovinezza come una sorta di categoria generazionale che ha un'importanza storica nasce con il mito romantico della gioventù e si accentua nel corso dell'Ottocento e poi esplode nel Novecento, perché il Novecento è il secolo della modernità e la modernità viene identificata per il nuovo, e chi è più nuovo che non i giovani? E i giovani sentono questa loro realtà antropologica che li distingue dal vecchio, dai genitori, e sentono questo desiderio di creare un mondo nuovo, perché il mondo nel quale sono nati e cresciuti, che bisogna ricordarlo, è il periodo più prospero della storia dell'umanità in tutta la sua vicenda, gli appariva noioso, corrotto, ipocrita, e cercano qualcosa di reale, qualcosa di autentico, qualcosa che li unisca in una sorta di intransigenza morale e che sia veramente la realizzazione di un mondo migliore. Questo poi sfocia nella Grande Guerra ed è la fine di questo sogno, perché da questa stessa mitologia della giovinezza nascono i regimi totalitari, perché il mito della giovinezza era nei regimi fascisti ma era anche nel regime comunista. Sì, ecco, lo chiedo a lei che è un esperto, uno storico che ha studiato a lungo il fascismo. Durante il ventennio il mito della giovinezza è uno, come dire, dei tratti portanti del regime, però ovviamente inteso in tutt'altro modo rispetto al discorso che abbiamo fatto finora. Beh, certo. Diciamo che con il fascismo addirittura abbiamo il primo regime della storia che si proclama regime di giovani, che fa della giovinezza una categoria morale oltre che storica, e che ha come il proprio inno giovinezza, ed è certamente una totale deformazione di quello che era stato lo slancio rinnovatore dei giovani che all'inizio del secolo lottavano per avere un mondo più libero, mentre il fascismo e i totalitarismi danno alla giovinezza una diversa realtà, quella cioè della giovinezza irregimentata in sistemi politici che impediscono qualsiasi possibilità di emancipazione autonoma dei giovani, ed è quello che invece viene fatto poi dall'antifascismo, che è anch'esso un fenomeno giovanile. Pensiamo che Gobetti aveva 25 anni quando muore dopo le aggressioni fasciste, che giovani erano Nello e Carlo Rosselli e così via. Quindi c'è questo conflitto che vede le generazioni degli anni 30 lacerate da una guerra civile, potremmo dire generazionale, per due opposti modi di concepire la giovinezza. Grazie professore. Thank you. La storia e la memoria. Bentornati alla Storia e la Memoria. Il radiodocumentario di questa sera racconta del sanguinoso conflitto che durante la Seconda Guerra Mondiale ha avuto luogo sulla linea gotica, l'ultimo baluardo della resistenza tedesca in Italia. Come spiega il professor Amedeo Montemaggi, per gli alleati la posta in palio non è solo la liberazione definitiva del territorio italiano dall'occupazione nazista. Sulla linea gotica, infatti, si gioca una partita molto più complessa, uno scontro che avrà per obiettivo il futuro dell'Europa e del mondo intero. L'intonazione politica di questa offensiva nacque dalla precedente conferenza di Teheran, quando i tre grandi, cioè Stalin, Churchill e Roosevelt, si riunirono per decidere la condotta della guerra. Avevano deciso di fermarsi a Roma, ma Churchill non approvò questo piano perché voleva liberare subito l'Italia settentrionale e dall'Italia settentrionale penetrare nei Balcani incontro all'Armata Rossa per impedirne l'accesso al Mediterraneo. Quindi per questo questa battaglia in cui si decideva il destino del Mediterraneo decideva in ultima analisi il destino del mondo occidentale come noi oggi lo abbiamo. Una fortezza immensa e formidabile. Una serie di linee difensive lungo 320 chilometri, da Massa Carrara sul Tirreno fino a Pesaro sull'Adriatico. Una barriera inespugnabile, nelle parole del feldmaresciallo Kesselring, comandante in capo dell'esercito tedesco in Italia. Oltre a sfruttare le roccaforti naturali, ad esempio il passo della Futa tra Firenze e Bologna, la linea gotica è costituita da un complesso sistema di bunker, trincee e fossati anticarro scavati nelle zone di pianura. Per fermare l'avanzata degli alleati, in marcia da sud a nord, Kesselring fa allagare intere zone sulla linea del fronte e abbattere migliaia di alberi, in modo che il nemico non abbia il minimo riparo. Il Terzo Reich è al crepuscolo. Gli anglo-americani a ovest avanzano dalla Francia. Da est l'Armata Rossa dilaga verso la Polonia e la Romania. Il 20 luglio un ulteriore segnale di crisi. Hitler, nel suo quartier generale, detto la Tana del Lupo, scampa per puro caso ad un attentato organizzato da alti ufficiali dell'esercito. Ma il Führer non vuole sentire parlare di resa. Il dittatore tedesco ritiene di avere ancora carte da giocare. Le nuove armi a razzo e magari le divergenze ideologiche e strategiche tra gli alleati che egli ha fiutato o intuito. Da Berlino, quindi, l'ordine di Hitler è perentorio: resistere ad ogni costo. La Germania non può fare a meno dell'Italia settentrionale e delle sue industrie. Di contro, per gli alleati, la pianura padana rappresenta una base ideale da cui far decollare i propri bombardieri per colpire le città e le industrie tedesche. Churchill ha un'idea precisa in testa. Anch'egli è convinto che i giorni del Terzo Reich sono contati, ma tuttavia ritiene che non si debba sguarnire lo scacchiere mediterraneo. Il pensiero dello statista inglese corre al dopo. Cosa sarebbe accaduto e quali sarebbero stati i rapporti con l'Unione Sovietica dopo la sconfitta tedesca? Egli teme che l'Armata Rossa possa dilagare oltre i Balcani, assicurando al gigante sovietico il dominio non solo di tutta l'Europa orientale, ma anche di altri paesi di confine fino al Mediterraneo. Le discussioni col dittatore sovietico alla conferenza di Yalta nel febbraio 1945 confermeranno che le sue preoccupazioni non erano infondate. Luglio 1943. Gli alleati sbarcano in Sicilia. Ma ci vorrà ancora un anno per arrivare all'Appennino. Dopo il contrastato sbarco di Salerno del settembre 1943, le sanguinose battaglie di Cassino e Anzio per la liberazione di Roma, che avverrà soltanto nel giugno del 44, le armate alleate arrivano stremate all'appuntamento decisivo per la liberazione dell'Italia intera, quello sulla linea gotica. 25 agosto 44. È una giornata torrida. La pianura che si estende tra il mare Adriatico e le montagne è resa quasi invisibile da una cappa di foschia. Dentro i carri armati arroventati dalla canicola, l'aria è irrespirabile. Le zanzare tormentano i soldati. Centinaia di migliaia di uomini, tra cui inglesi, canadesi, polacchi, indiani, nepalesi, aspettano l'ordine di attaccare. Che l'attacco sia imminente lo capiscono appena scesa la notte, sentendo il rombo dei bombardieri. L'artiglieria strazia le difese tedesche, che non si aspettavano una tale potenza di fuoco. Nella prima linea tedesca si trova il sottotenente alpino Finkhaus. Oggi, in tempo di pace, è difficile immaginare cosa sia subire il fuoco di sbarramento dell'artiglieria. una sequenza incessante di spari, esplosioni, edifici che crollano. Per salvare la pelle, l'unica cosa è trovarsi un riparo. Dopo la strage compiuta dall'artiglieria, è il momento di dare l'assalto alle linee tedesche. I comandanti degli squadroni di carri impartiscono gli ultimi ordini. Chiudere le botole delle torrette, silenzio radio e avanzare contro il nemico. Si tratta in fondo di un piano elementare. L'armata inglese sfererà un attacco massiccio sulla costa e mentre i tedeschi spostano su quel fronte le loro preziose riserve, le divisioni americane attraverseranno i valichi appenninici e prenderanno Bologna. Il generale Alexander definirà l'operazione, con gergo pugilistico, un secco 1-2. In effetti, l'attacco alleato nel settore canadese coglie di sorpresa il nemico e riesce in pochissimo tempo a sfondare la prima linea tedesca. Fra il 30 agosto e il 3 settembre, tra i paesi di Montecchio e Tavuglia sul fiume Foglia e Riccione e Coriano nei pressi di Rimini, divampano gli scontri. Il 2 settembre i tedeschi, incalzati dalle formazioni corazzate canadesi, dal secondo corpo polacco del generale Anders, il conquistatore di Cassino, e dal quinto corpo inglese, arretrano ordinatamente di una ventina di chilometri sull'asse Riccione-Gemmano. L'iniziativa è stata presa con una decisione del tutto personale, secondo la tattica tedesca, dal generale Wenzel, capo di stato maggiore del decimo corpo d'armata tedesco, che trasferisce sul fronte adriatico la 29esima divisione Panzergrenadier e altre unità richiamate dal fronte appenninico. Quella di Wenzel è un esempio concreto dell'applicazione della tattica dell'incarico, che presuppone duttilità e capacità di adattamento in battaglia. Professor Amedeo Montemaggi, del Centro Internazionale Documentazione Linea Gotica. La tattica dell'incarico consiste nell'affidarsi all'uomo che combatte e dirgli: tu devi fare questa azione, non c'è bisogno che noi ti diciamo niente perché tu sei stato addestrato a farla, non c'è bisogno. Nella tattica invece dell'ordine si dà ad un soldato l'ordine di fare una determinata azione secondo le regole che vengono stabilite da un comando che, non essendo sul posto, non conoscendo il luogo né l'entità dei nemici, non può dare un'azione, una decisione definitiva. Il 3 settembre i canadesi entrano a Cattolica. Il 4 sono a Riccione, dove però vengono bloccati mentre si accende la battaglia nella località di Gemmano, cardine difensivo del secondo sbarramento sulla linea gotica. Johannes Finkus, sottotenente 5ª divisione da montagna, Germania. Una sera sentiamo il rumore di un motore. Il rumore si avvicina sempre di più. Poi il messaggio: dalla strada di Villa laggiù sta salendo un carro armato. Una situazione di massimo allarme. Che fare? Avevamo un solo Panzerfaust. Lo presi e mi feci accompagnare dal mio portaordini. Cercai una postazione da dove sparare al carro quando fosse arrivato a tiro. A quel punto successe una cosa insolita. Il mio portaordini comincia a chiedermi con insistenza: faccia sparare me, signor tenente, faccia sparare me. Fu così convincente che gli cedetti il Panzerfaust. Ci mettiamo al riparo e il mio soldato prende la mira. Fa fuoco e il carro armato di colpo si blocca. Stava fermo senza sparare, il motore spento. L'aveva colpito. La storia e la memoria. Continua il radiodocumentario in collaborazione con History Channel sul conflitto scoppiato lungo la linea gotica. Mentre l'esercito nazista sembra cedere sull'Adriatico, il comandante in capo delle truppe alleate in Italia, Alexander, dà ordine agli americani dislocati sulle montagne appenniniche di sferrare l'attacco. È l'altro braccio della tenaglia che si chiuderà per stritolare definitivamente i tedeschi. Alexander è convinto di sfondare le difese tedesche e di arrivare in breve al Po fino a Trieste ed entrare nel corridoio di Lubiana. I partigiani, che sino a quel momento avevano compiuto azioni anche di grande rilievo, ma sporadiche, scendono in campo per la prima volta in maniera organica e sistematica contro l'esercito tedesco, che si trova così preso tra due fuochi. Di fronte gli alleati e alle spalle le formazioni partigiane. Tra le fila dei partigiani combatte Nazario Galassi. La morte che più mi ha impressionato E questa è stata quella di Bruno Tarossi a Poggio Termine, quando una pallottola infilata in una fessura della stalla gli spaccò letteralmente la fronte e mi cadde ai piedi. Vedo ancora il sangue uscirgli dalla fronte come un fiasco rovesciato, inondare rapidamente tutta la cucina del suo sangue. Per chi è in prima linea, la guerra assume i caratteri di tragedia ancora più insopportabile quando a cadere sono i compagni con cui si è vissuto e combattuto sino a quel momento. Sul fronte adriatico, i capisaldi di Coriano e Gemmano sono ormai mano alleata. L'ottava armata ha sfondato in più punti e avanza su Rimini e verso la Repubblica di San Marino. I tedeschi arretrano di pochi chilometri più a nord. A Gemmano, la sesta e la settima compagnia del reggimento alpino vengono inghiottite dal fuoco alleato. Sopravviveranno solo 10 uomini. Finkhaus è uno di questi. I primi di settembre successe un episodio che non potrò dimenticare. Si diceva che da una casa ogni tanto si sentiva sparare. Ricevetti l'ordine di farla ispezionare. Era quasi sera, ma Gemmano, da dove non arrivava nessuno sparo, era ancora ben visibile. Due miei sottufficiali scesero nella cantina e a quel punto si udirono due spari sordi. Subito dopo qualcuno risalì. Era uno dei due sottufficiali. Balbettò qualcosa e poi crollò a terra, morto. Lì per lì non capii cosa stesse succedendo. Intanto il mio comandante di compagnia mi ordinava di far circondare la casa e di darle fuoco. Quando ad un tratto sento gridare in tedesco: «Camerati, non sparate!» E dalla cantina esce il giovane italiano che aveva detto quella frase in tedesco, seguito da un gruppo di soldati inglesi. Erano 17 in tutto. Si arresero e i nostri li portarono nelle retrovie. Non ne ho saputo più nulla. Quando sono sceso in quella cantina, ho visto due soldati morti, un inglese e il nostro sottufficiale, stesi i bocconi, uno sopra l'altro, come a formare una croce. Erano rimasti uccisi dallo stesso colpo. Il 18 settembre ha luogo il grande assalto anglo-canadese sulla direttrice Rimini-San Marino. La notte del 20 settembre i canadesi riescono a sfondare le difese tedesche e il 21, insieme ai greci della terza brigata di montagna, liberano Rimini. Nel frattempo, la mattina del 20, a Montecieco, sempre sulla Rimini-San Marino, gli inglesi lanciano all'attacco i carri armati. Davanti a loro, la 90esima divisione Panzer Grenadier, comandata da un abile ed eccentrico generale, Ernst Günther Bade. Amato dai suoi soldati, Bade combatte in prima linea, infischiandosi dei richiami dei superiori. Il generale Lees decide di giocare l'ultima carta. Ma il generale Bade ha studiato con cura tutti i possibili movimenti dei carri alleati e preparato le postazioni di tiro dei temibili 88. Gli artiglieri tedeschi non credono ai propri occhi quando vedono delinearsi a poche centinaia di metri le sagome dei carri armati nemici. Avanzando allo scoperto, sono un facile bersaglio. Su 27 carri armati, ben 24 vengono in breve distrutti. Lo smacco per gli inglesi è talmente grave che il comando decide di sciogliere la prima divisione corazzata e di destituire uno dei suoi comandanti, il generale Goodbody. I combattimenti continuano quasi per forza di inerzia a Cesena, Forlì, Ravenna e Faenza, finché gli inglesi non vengono bloccati dal fango e dalle acque dei fiumi in piena. Ritirandosi, Kesselring aveva vinto, mentre Alexander, avanzando, aveva perso. È solo a questo punto che il feldmaresciallo Kesselring chiede a Hitler di potersi ritirare dall'Italia settentrionale e attestarsi sulle Alpi. La richiesta viene respinta. Pur non incontrando sostanzialmente alcuna resistenza, gli americani si arrestano inspiegabilmente a 15 chilometri da Bologna. Agli occhi dei soldati, gli obiettivi della guerra in Italia appaiono sempre meno chiari e a volte contraddittori. Si potrebbe quasi dire che le truppe vivano una crisi d'identità. La crisi può essere stata influenzata dalle importanti divergenze strategiche e ideologiche tra Churchill e il presidente americano, poco interessato allo scacchiere italo-balcanico. Certo è che i tedeschi approfittano di questa stasi per riorganizzarsi e talvolta addirittura per passare alla controffensiva. Lo stesso generale Alexander, comandante in capo delle truppe alleate in Italia, ammette: «Il nemico è più veloce di noi, più veloce nel raggruppare le truppe. più veloce nello sguarnire un fronte per liberare forze con cui tappare le falle nei punti decisivi, più veloce nel portare aiuti, più veloce nel portare attacchi e contrattacchi e soprattutto più rapido nel prendere decisioni sul campo di battaglia. Nel confronto, i nostri metodi sono spesso lenti e impacciati e ciò vale sia per le nostre truppe che per quelle americane. Nell'estate e autunno del 1944, questi rastrellamenti, che talvolta sfociano in atti di vera e propria violenza, non fanno che aumentare il numero dei civili che si uniscono alle formazioni partigiane. Con l'intensificarsi dell'attività partigiana, sostenuta non di rado dalla popolazione civile, si registrano continui attacchi alle truppe tedesche. Quella dei partigiani si rivela un'implacabile spina nel fianco della Wehrmacht. Alle unità tedesche si aggregano anche quelle della Repubblica Sociale, tra le quali le SS italiane, la decima MAS e le Brigate Nere. Da quel momento il conflitto assume il volto cruento e crudele della guerra civile. 16 ottobre. Dopo vari giorni di marcia e di scontri con le truppe tedesche, le formazioni partigiane raggiungono le linee americane. Le rappresaglie compiute dai tedeschi e in particolare dalle SS, non solo contro i partigiani, ma anche contro le popolazioni civili, raggiungono punte di inaudita crudeltà. Il più terribile massacro, compiuto da alcuni reparti della 16ª divisione Reichsführer SS, avrà luogo nelle frazioni del comune di Marzabotto tra il 29 settembre e il 1 ottobre. Li comanda il maggiore Walter Reder, detto il Monco, già autore di un analogo eccidio di civili a Sant'Anna di Stazzema, in Toscana. A questo punto il generale Alexander fa trasmettere via radio un incauto messaggio in cui dichiara conclusa la campagna estiva ed autunnale. «Preparatevi a sopravvivere all'inverno e poi ci sarà l'offensiva finale in primavera», dirà Alexander ai partigiani, temendo una rivolta popolare di carattere dichiaratamente politico. Ma le sue parole resteranno lettera morta. Per i soldati dei due fronti, quello del 44, è un inverno lunghissimo. Poi finalmente arriva la primavera e con essa il definitivo attacco alleato. I soldati americani, non abituati a combattere in montagna, impararono a caro prezzo la lezione nel corso della campagna d'Italia. Per questo, dopo le esperienze di Monte Cassino, lo Stato Maggiore americano aveva deciso di addestrare delle truppe specializzate per il combattimento in montagna. Finalmente la poderosa tenaglia anglo-americana si chiude. Il 14 aprile l'operazione Grapeshot, condotta congiuntamente dall'ottava armata britannica sull'Adriatico e dagli americani della quinta armata sugli Appennini, liquida definitivamente la linea di resistenza tedesca. I soldati della Wehrmacht corrono verso nord senza speranza. Earl Clark, capitano 10ª divisione da montagna, Stati Uniti. Abbiamo fatto molti prigionieri alla fine della guerra. I tedeschi hanno combattuto con grande coraggio e con una certa cavalleria, fino a quando abbiamo sfondato le loro linee e abbiamo dimostrato che per loro non c'era ragione di continuare a combattere. Ma con l'approssimarsi della fine della guerra in Italia e nel resto d'Europa, le forze tedesche si andavano esaurendo. Arruolavano perfino ragazzi giovanissimi, alcuni avranno avuto non più di 15 o 16 anni, e anche molti anziani. Il 21 aprile viene liberata Bologna e il 25 aprile le avanguardie americane entrano a Milano. Pochi giorni dopo, a Piazzale Loreto, saranno esposti i corpi di Mussolini e Claretta Petacci, catturati dai partigiani e fucilati a Giulino di Mezzegra, e di alcuni gerarchi fascisti, tra i quali Pavolini, Bombacci e Mezzasoma. Il 29 aprile a Caserta i tedeschi firmano la resa incondizionata. La guerra in Italia è finita. I morti sono stati centinaia di migliaia, tra tedeschi, alleati e civili. Il paese, privo di strade, ponti e industrie, è in ginocchio. Città come Torino, Milano, Genova, Napoli sono ridotte a un cumulo di macerie. Ci vorrà tempo perché le ferite materiali e morali si possano rimarginare. Tra questi uomini che sono tornati nei luoghi dove combatterono, dove videro morire i loro compagni, uno di loro, non importa quale, ci ha detto salutandoci: «Avevamo 20 anni. Sono stati i migliori e i peggiori anni delle nostre vite». Il sottotenente Johannes Finkhaus si stabilirà presso il lago di Costanza, dove diverrà professore di lettere e insegnerà per molti anni latino e greco. Tornerà in Italia più volte. A Gemmano resterà stupito e commosso nel vedere che i cittadini avevano seppellito 120 caduti tedeschi accanto ai propri morti. Quando sono tornato nel 1950 e ho cercato la casa dove avevo fissato il mio comando tattico, ho parlato con due donne anziane. Mi sentivo quasi in dovere di sapere se serbavano rancore verso noi soldati tedeschi per il fatto che avevamo combattuto qui e che il loro paese era stato distrutto. Allora una delle donne mi disse: «La colpa non è del soldato, la colpa è della guerra». Lo trovo un pensiero molto saggio. Prima di chiudere, vi segnaliamo che questo documentario andrà in onda su History Channel domenica 23 novembre alle 4:40 col titolo «Assalto alla linea gotica, l'ultimo balzo». Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Daniele Casagrande. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.